Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medios, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Homo sapiens, che naturalmente vuol dire anche Mulier sapiens. Di questo parleremo fra pochissimo all'inizio di Möbius e adesso sentiamo i titoli. A 15.000 anni, Essenese Verace e dal 1962 era dimenticato nei sotterranei dell'università. Adesso è stato ripulito, datato e messo in bella mostra grazie all'impegno e alla curiosità di un giovane dottorando. Per la rubrica Domande impossibili, Möbius questa settimana soddisfa la curiosità di Giorgio di avere maggiori informazioni sull'isola deserta di Clipperton. Fu il primo aereo progettato per le trasvolate oceaniche con tanti passeggeri. Era il 1921 e si schiantò durante una prova sul Lago Maggiore. Corre nei deserti, ma progetta anche tecnologie avanzate per la sostenibilità. È un giovane imprenditore italiano. Chiara, ciao. Ciao Federico, buonasera a tutti. Chiara Bicocco è qui con me per parlare dell'uomo del chiostraccio. E già questo chiostraccio, secondo me, è l'Homo sapiens. Ci ecco. Porta in Toscana. Sì, sì, dobbiamo avere un po' di accento senese, diciamo. Loro hanno un sacco di cose che finiscono per accio, no? Eh sì. Poi in questo caso si tratta proprio di un reperto che, pensa, è stato rinvenuto nel 1962. È stato quasi, se vogliamo dire, anche se è brutto, dimenticato. In un sotterraneo dell'università, però grazie alla volontà, ecco, di un dottorando del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Siena, diciamo che ha una nuova vita, ecco, e anche un nuovo successo. Vabbè, direi di presentare il nuovo scopritore, Ivan Martini. Buonasera Martini. Buonasera a voi. Senta, certo che uno che per 15.000 anni non l'abbiamo più visto, poi appare e però lo mettete in cantina e sta lì altri 40 anni, è veramente uno scherzo pesante. Quindi lei ha detto, è la volta che lo devo tirar fuori e parlarne. Sì, assolutamente, è una storia un po' bizzarra e tante scoperte scientifiche sono caratterizzate da storie del genere, ma questa forse ha dei risvolti ancora più interessanti, perché come avete detto voi, la scoperta risale al 1962. Solo recentemente, a causa di una scoperta di altri resti fossili di un orso delle caverne, mi sono reinteressato all'argomento, scoprendo che appunto negli anni 60 è stata fatta questa scoperta. È iniziata così una lunga ricerca bibliografica al fine di ritrovare il materiale inerente a questo uomo e quest'altro orso delle caverne trovato negli anni 60, e solo dopo un lungo cercare sono riuscito a rintracciare i resti che erano conservati presso il nostro Ateneo, però erano stati conservati senza più avere indicazioni sulla provenienza, per cui avevano un significato scientifico abbastanza limitato. Ecco, e ora ci arriviamo al significato invece che ha assunto, ma l'uomo del chiostraccio che cosa significa? Ma il chiostraccio è questa cavità naturale, una grotta che si apre nel comune di Monteriggioni, in provincia di Siena. È una delle cavità più importanti dell'area del Senese, profonda circa 50 metri ed è costituita da un grande salone a cui si accede attraverso un pozzo d'ingresso profondo 20 metri. Ecco, allora insomma l'avete un po' spolverato, ripulito e poi avete fatto, diciamo, tutto quello che adesso la tecnologia ci permette di fare, quindi l'avete datato. Ecco, ma scusa Chiara, l'avete ripulito? Cosa c'è? Un cranio, delle ossa? Cos'è che c'è? Cos'è che... è pressoché completo. Ah, uno scheletro, pressoché completo. Completo, è quello che è molto interessante. Questo lo rende un reperto veramente eccezionale e già all'epoca, negli anni 60, ci fu un interesse da parte degli accademici, in quanto si accorsero che questo scheletro presentava dei caratteri arcaici. L'assenza di tecnologie come quelle attuali di datazione però non consentì mai di datare effettivamente il reperto, che venne collocato genericamente come un reperto neolitico. Mentre adesso, grazie alle nuove tecnologie, siamo riusciti a datarlo al carbonio 14, arrivando a questa nuova datazione eccezionale di 15.000 anni circa. Ecco, infatti. Poi mi sembra che la parte interessante appunto di questo reperto sia che derivi da questo Homo sapiens che non è stato sepolto, ma che purtroppo ha avuto un incidente, è caduto in un pozzo e quindi l'abbiamo ritrovato così come se fosse caduto subito dopo, insomma. Esatto, questo sì, perché l'uomo è stato accertato morto a causa di un trauma cranico conseguente alla caduta all'interno della cavità, e questo, oltre ad avere l'aspetto folcloristico di non trattarsi di una sepoltura ma di un incidente in un momento di una vita reale, ci dà anche un'altra importante conseguenza del fatto che lo scheletro non è mai stato sepolto da terra o sedimento e quindi non è stato mai aggredito dagli acidi umici che sono normalmente presenti all'interno dei sedimenti, ecco. E questo chiaramente ha portato a una preservazione eccezionale dello scheletro. Sì, perché forse qui c'è un dato da sottolineare. Ne stiamo parlando, ne abbiamo parlato all'inizio, forse creando l'immagine di un uomo preistorico perché è stato trovato in una caverna. In realtà 15.000 anni fa si incominciava ad avere come degli insediamenti umani, no? Anche con capanne, con villaggetti. Quindi l'avete trovato nella caverna perché lui, poveretto, c'è caduto dentro. Esatto, sì, probabilmente stava girando per i boschi. Come ho detto, l'ingresso è costituito da un pozzo profondo 20 metri. Certo. Chiaramente se il pozzo non è di grandi dimensioni, se questo fosse stato oscurato magari da delle frasche cadute, chiaramente costituiva una trappola in cui lui è andato a cadere. E poi è molto ben conservato, in Italia non ne abbiamo tanti di questo tipo. Adesso lui è considerato, diciamo, il toscano più vecchio, ma anche quelli che abbiamo in altre zone della nostra penisola comunque non sono così ben conservati e così ben... E che tipo di caratteristiche interessanti può avere come diversità da noi, insomma, 15.000 anni di solito dal punto di vista evoluzionistico non sono un granché, invece qui c'è qualche diversità, non so, ci dica. Sì, adesso io non sono un antropologo, sono un geologo, per cui non mi addentro troppo all'interno della materia. C'è da dire che comunque mostra delle caratteristiche morfologiche che non sono tipiche dell'uomo sapiens, pur essendo un uomo sapiens. Infatti già i primi studiosi ipotizzarono delle possibili connessioni e delle caratteristiche più affini per certi versi anche all'uomo di Neanderthal. Chiaramente sono tutte indagini che vanno portate avanti e molto ci verrà detto dall'analisi del DNA che con le tecnologie attuali è possibile eseguire su questo tipo di reperti. Ecco, Martini, ora sarà esposto al pubblico, potremo vederlo? No, al momento no, al momento è stato esposto solamente per una conferenza che abbiamo tenuto venerdì scorso. Chiaramente adesso si procederà con tutta la fase di indagini e quindi il reperto non è esposto al pubblico. Insomma, questo ragazzo non riesce a farsi vedere. Non riesce a vedere la luce. Non riesce a farsi vedere ancora. No, ormai ha aspettato tanto, facciamo attendere un altro po'. Va bene, grazie Martini, allora noi aspettiamo insieme a lei. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci, buonasera. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Come ogni settimana, pronti, pronte, col cellulare, arriva il quiz. Dunque, c'è una illustre new entry nel paradiso, mettiamola così, mica ci sarà l'inferno, no, per gli animali, nel paradiso degli animali estinti. Quale? Il coguaro, ovvero il puma americano, ci scriverete puma. Il rinoceronte di Sumatra, ci scriverete rino. Il cavallo della steppa è l'ultima possibilità, della steppa centroasiatica, ci scriverete cavallo. Come ci scriverete? Ve l'ho detto prima, con il cellulare, con un SMS al 349-238-6666. Il libro che si vince questa settimana è La fisica della domenica, brevi escursioni nei quattro elementi, scritto da Michele Marenco, edito da Sironi, e di questo libro parleremo probabilmente in una delle prossime puntate. In collaborazione con IBS.it. Museo dell'Aviazione Gianni Caproni a Trento. Sono andato a visitarlo e vi consiglio di farlo perché è davvero un bel museo in espansione, fra l'altro, ma lì ho incontrato una storia particolare. Adesso sono uscito dallo studio e sono andato anche molto lontano da dove lo studio si trova, perché sono a Trento, poco fuori Trento, dove c'è il Museo dell'Aviazione Gianni Caproni. Caproni è un nome che probabilmente molti di quelli che ci ascoltano sanno ricollegare alla storia dell'aviazione italiana. La Caproni fu una grande azienda che costruì tantissimi aerei quasi dall'inizio del volo. E qua sto muovendovi, mi piacerebbe che voi foste presenti per farvi vedere con immagini. Le troverete un po' sul nostro sito, il sito di Möbius, per rivedere questo ampio locale in cui mi trovo, beh, insomma una specie di hangar con dentro tanti aerei. E sto avvicinando però un oggetto veramente singolare e per parlare di questo oggetto ho qua di fianco a me Luca Gabrielli. Buonasera, siamo vicini ad un modello, fra tanti aeroplani del museo, un modello di Caproni CA-48. Luca Gabrielli è il curatore del museo. È un modello abbastanza grande, cosa sarà? Un 4 metri di ali per 2 metri di coda? Ed è un modello di quell'epoca? È un modello dell'epoca, è largo più di 5 metri, quindi è in scala 1 a 5 e ci rappresenta uno fra i primi tentativi della Caproni, e direi in Italia, di aeroplano per trasporto passeggeri subito dopo la Prima Guerra Mondiale. Vedo qua una curiosissima postazione per i piloti all'aperto, come una specie di balconcino. Esattamente, una postazione di pilotaggio a due posti posizionata all'esterno, all'interno, quindi dentro la cabina chiusa potevano stare solamente i passeggeri paganti. Allora, dentro questo museo ci sono tantissime storie e noi qui adesso ne raccontiamo una. Questo aereo fu al centro di una vicenda veramente singolare. Fu prima di tutto uno dei primi con cui furono attrezzate le prime linee aeree nazionali, ma fu anche al centro di un curioso incidente. Nell'agosto del 19 uno di questi velivoli, peraltro impegnato in un volo propagandistico con alcuni fra i principali esponenti della stampa nazionale, precipita nei dintorni di Verona. E precipita per un curioso incidente. Una macchina fotografica sfuggita ad un giornalista colpisce un'elica, a sua volta viene rimbalzata contro i piani di coda dell'aeroplano, insomma ne determina l'improvvisa caduta. E tutta la gente che è a bordo, quanta gente c'era? E parliamo di una ventina di persone che muoiono tutte nell'impatto. Dobbiamo ricordare che quello fu il primo incidente aeronautico per il quale si svolse un'indagine modernamente intesa, quindi si ricostruirono le dinamiche di questo incidente in modo assolutamente preciso. Però questo aereo fu utilizzato per una prima serie di voli di trasporto civile. Infatti da qui nasce l'esperienza del trasporto civile in Italia, anche con numeri assolutamente rilevanti, parliamo di 20-30 persone, e da qui partiranno anche le successive sperimentazioni di Caproni per il volo passeggeri. E a proposito di voli per trasporti civili, noi passiamo a questo, come definirlo, siamo qui davanti a una grande foto, perché è una foto di 4x10 metri, nella quale è riprodotto, sembra un palazzo volante. Sì, palazzo volante era la definizione adottata anche all'epoca, si parlava anche di nave volante, poiché questo aeroplano era un idrovolante, quindi pensato per decollare e atterrare da superfici d'acqua. Siamo sul Lago Maggiore, abbiamo una fusoliera che era, credo, di una quindicina di metri. E raggiungeva, superava anzi, i 20 metri in lunghezza. Si trattava in realtà di un grande scafo chiuso, di una grande cabina che poteva alloggiare 100 passeggeri seduti su panche in legno, come all'interno di un grande tram. Ci sono delle foto appunto di questi interni e sembra veramente di essere su uno di quei tram degli anni 20-30, infatti qui in che anni siamo? Siamo esattamente nel 1920, le prove di volo verranno condotte nella primavera del 21. Su questa fusoliera dovete immaginarvi 1, 2, 3, cioè 6 ali che vanno verso l'alto. Quanto erano grandi? Qual era l'apertura alare? L'apertura alare di questo palazzo volante raggiungeva i 30 metri. Si trattava di ali recuperate dai bombardieri della Prima Guerra Mondiale, quindi un ottimo stratagemma per dare una soluzione anche ai problemi del materiale invenduto dalla guerra. E con 6 motori, 7 motori? 8 motori per 9 ali. Dunque, questo è il primo tentativo di grande aereo di trasporto civile. Direi di sì, perché passiamo da un ordine di grandezza di 20-30 passeggeri trasportati fino ad allora a 100 passeggeri, quindi un'esperienza assolutamente mai tentata prima, e parliamo anche di tratte che diventano transoceaniche. Qui si cerca di trasportare queste 100 persone da una sponda all'altra dell'Oceano Atlantico. Ma che cosa in realtà si è riusciti a fare in termini di volo? Qui le cose sono andate un po' peggio di quanto si prevedesse. L'esperienza in effetti non ha corrisposto ai programmi. Il prototipo fu costruito, provato sulle acque del Lago Maggiore nel marzo del 1921. In realtà le prove di volo, se evidenziano un buon funzionamento dell'aeroplano, però si concludono con un incidente curioso, come spesso accade nella vicenda di questa avventurosa azienda Caproni. I sacchi di sabbia utilizzati per simulare il peso dei passeggeri, dei 100 passeggeri, non vengono vincolati ai sedili, sedili e sacchi si ribaltano in fase di ammaraggio, insomma l'aeroplano compie un brutto impatto sulle acque e il prototipo viene abbandonato di lì a poco. Adesso io mi sposto un po' a destra e batto su una superficie in legno. E che cos'è? Sono gli unici resti esistenti, eccoli qua, di questo aereo che il museo Gianni Caproni espone per la prima volta. Siete riusciti in questa attività che state facendo recentissima di ampliamento del museo, li avete recuperati da un vostro magazzino e qui li abbiamo. Certo sono mal ridotti, ma sono la testimonianza abbastanza emozionante. Sono anche frammenti imponenti, dobbiamo immaginarne le dimensioni. Si tratta di scafi la cui lunghezza supera i 5 metri, lo scafo centrale ha un'ampiezza di 2 metri e mezzo e si tratta solamente della parte terminale di questo grande scafo per le 100 persone. E in effetti sì, si tratta di un'anteprima. Questi pezzi escono per la prima volta dopo decenni di silenzio, vengono quindi visti dal pubblico per la prima volta e comunicano attraverso la loro grandezza e anche attraverso i danni riportati in questo incidente del 1921 la grandezza di questo progetto tentato da Caproni. Avete anche recuperato un altro reperto molto emozionante, è un filmato, l'unico filmato credo esistente. Dove l'avete trovato? Insomma, in cui si vede l'aereo nelle sue fasi di messa a punto iniziale, con gente che sale, tecnici. È uno straordinario videodocumento risalente al febbraio-marzo 1921. Fu commissionato dallo stesso Gianni Caproni durante le fasi terminali di costruzione e prova del velivolo, magari in vista della sua commercializzazione. Caproni ebbe sempre questa lungimiranza di lasciare traccia della sua opera sia per i posteri ma anche di documentarla per le esigenze aziendali. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Mai in tanti anni che faccio informazione scientifica non ho mai sentito parlare di questa isola Clipperton. Tu? Fino ad ora non ne avevamo mai sentito parlare, fino a che un ascoltatore del nostro programma, insomma, ci ha segnalato questa curiosità su il canale che di solito utilizziamo per lanciare, diciamo, i nostri temi, che è Facebook, sul quale appunto ci trovano come Moebius Scienza e ovviamente vi invitiamo a mandarci altri temi, altri quesiti, altre domande impossibili alle quali appunto noi possiamo forse dare risposta, o anche attraverso la classica mail moebius@radio24.it. Insomma, Giorgio, che ovviamente su Facebook aveva un altro nomignolo, ci poneva il seguente quesito. Mi ho chiesto di avere qualche informazione in più su questa isola misteriosa e dispersa nell'oceano, su quale ho trovato qualche notizia su internet, ma ben poco, mi affascinava avere qualche informazione in più. Ecco, e caramba, noi abbiamo qualche informazione in più. Abbiamo l'italiano che è appena stato in spedizione. E questa è stata una coincidenza. Una coincidenza totale, una fortuna totale. Fortunatissima. Allora, Giorgio, rimanga in ascolto, che adesso, insomma, cerchiamo in qualche modo di soddisfare la sua curiosità. Buonasera, Chico Maggioni. Buonasera. Esploratore, ha detto Chiara, ma mi sembra forse non è. Non fa proprio solo quello bianco nella vita, diciamo. Che cosa fa lei nella vita, Maggioni? Sono medico, chirurgo ortopedico. Però si è spinto fino là perché ha una passione. Sì, una passione grandissima che è data dalla infanzia per il mare e la subacquea. Ecco, allora adesso ci deve raccontare. Intanto ci deve dire dov'è quest'isola. Certo. L'isola è lontana, è nel Pacifico,

che le circonda l'isola. Oh, il luogo è talmente singolare con tutte le sue storie e tutta la sua morfologia che noi, sapete che Moebius collabora un po' con la rivista Newton, magazine di scienza Newton, allora noi l'abbiamo messa in contatto con il magazine e sul numero che è adesso... Sul numero estivo, sul numero di giugno. Esatto, ci sono delle immagini, c'è una descrizione, ci sono dei dati su quest'isola, quindi qualcosa si molto può curiosa. Vedere. Molto curiosa. Grazie Maggioni. Prego, prego. Grazie, voi. Arrivederci. Buonasera. Moebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siamo alla soluzione del quiz. La domanda era: quale degli animali che vi ho citato è entrato nel paradiso degli animali estinti? E vi avevo detto il coguarro, il rinoceronte di Sumatra e il cavallo della steppa. E invece sì, purtroppo è proprio lui. Non ricordo bene, ma deve esserci senz'altro un film nel quale John Wayne o Charles Bronson lottano strenuamente con un coguaro, ovvero un puma. È il puma americano, l'animale di cui ormai non v'è più traccia. Oh, per metterlo nell'elenco degli estinti, la cosa non è così banale. Gli ultimi avvistamenti certi sono intorno agli anni 30, verso il 1973, praticamente non si è avuto più nessuna segnalazione e arrivati ad oggi si pensa di cancellarlo. Lo stesso destino sembra che toccherà alla pantera della Florida, qualcosa di molto simile al coguaro. Ne sono rimasti 150 esemplari, ma su un territorio che è praticamente il 5% del territorio sul quale la pantera abitava, e quindi anche questa presto purtroppo finirà nell'elenco degli estinti. Questa era la soluzione del quiz. Noi ogni tanto nella nostra trasmissione scegliamo un argomento, ma lo scegliamo anche perché questo argomento è agganciato anche a un personaggio che fa delle cose interessanti, ed è il caso di questa sera. Il mio ospite è Francesco Galanzino. Buonasera Galanzino. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Dunque, mi vengono in mente un sacco di definizioni strane, probabilmente paradossali. La prima è un imprenditore nel deserto, che può voler dire mille cose, chissà quale immagini suscita in chi ci ascolta, però è calzante. Lei mi arriva da pochissime ore, potremmo dire dalla Namibia? Sì, sono stato in Namibia a attraversare il Namib Desert in una gara di corsa. Che non è affatto la prima. No, è la 14ª, in pratica ho superato i 3.000 km nei deserti con questa gara. Ecco, perché lei corre solo nei deserti? Oh sì, o deserti o montagne o comunque le nostre colline del Tortonese, ma comunque non su asfalto, ecco, non mi piace particolarmente l'asfalto. In che deserti è andato? Se è seduto glieli dico tutti. Beh, me ne dica qualcuno. Diciamo, sono stato nell'ordine in Tunisia, Mauritania, Marocco, Niger, Gobi in Cina, Atacama in Cile, tutta la via della seta, quindi Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Iran. Atacama, lei ha detto, Atacama è in alto, è a 3.000 metri. Atacama sì, è in quota, deserto di quota, la prima tappa che abbiamo fatto era 4.200 metri. Senta, ma lei non è che corre da solo, no? Cioè, sono delle gare internazionali. No. Siamo in gara contro altri concorrenti, alcune gare sono in autosufficienza, cioè bisogna portarsi sulle spalle, nello zaino, tutto quello che servirà per i 6 giorni di gara, quindi tutto il cibo, tutto il vestirsi e così via, perché l'organizzazione dà solo un litro e mezzo d'acqua ogni 12 km, oppure quelle non in autosufficienza, dove la sera si arriva alle tende e l'organizzazione dà dal cibo. Ok, e durano fino a 6 giorni queste gare, quanti chilometri fa al giorno? Ma no, nei quelle di 6 giorni sono 250 chilometri, però non so, ad esempio la Via della Seta ne ho fatti 430, ed è stata una grandissima cavalcata, durissima, nell'Asia centrale, indimenticabile. Non è che correte fortemente, è un'andatura da maratona olimpica oppure un po' meno? No. È più lenta. Bisogna governare che si corrono 250 km in 6 giorni, appunto. Che spesso si corre con lo zaino, spesso si corre nella sabbia, spesso si corre in alta quota o nel ghiaccio, come quando corso in Antartide piuttosto che al Polo Nord. Va bene, lei ha questa passionaccia delle corse e quindi mi viene da dire che la sua impresa non è correre, non è che lei guadagna correndo nei deserti, almeno se avesse trovato una cosa di questo genere sarebbe veramente rivoluzionaria. No, invece lei è un imprenditore e tra l'altro un imprenditore con un'attività che ha dentro un tasso di innovazione molto elevato. Forse in questo ci sarà un collegamento con il correre in questi territori così aspri, così diversi dai nostri. Ma veniamo a quello che lei fa. Sì, in effetti il mio modello unico non si regge sullo sport, anzi sostiene lo sport, in quanto io faccio l'imprenditore, abbiamo un piccolo gruppo, la capogruppo, in pratica la società più importante, costruisce impianti di compostaggio e smaltimento rifiuti, e poi abbiamo delle controllate che fanno smaltimento rifiuti. Poi ne abbiamo una piccina nuova molto molto simpatica e interessante che fa offset di emissioni in atmosfera, quindi compensiamo le emissioni in atmosfera delle aziende, tant'è che tutte le gare che faccio, tornando un attimo alle gare, io le faccio carbon zero, quindi faccio il calcolo di quante tonnellate di CO2 causo fra trasferta, volo aereo e così via, e le compenso con delle tonnellate di sequestro di CO2 che faccio con una delle nostre aziende. Beh, quindi direi che una prima connessione è una grande passione per l'ambiente e proprio per gli ambienti che sono in condizioni di natura estremamente, insomma, dire estremamente oggi è un po', bisogna stare cauti, insomma, molto incontaminata, abbastanza incontaminata, diciamo, e il lavoro che lei fa, che è un lavoro di impresa con tecnologie ambientali. C'è qualcosa di particolarmente di punta in quello che voi fate? Ad esempio abbiamo brevettato un anno fa, l'abbiamo presentato lo scorso anno a Lisbona, un nuovo brevetto che è proprio il GECO, perché noi abbiamo la bella abitudine di chiamare ognuno dei nostri impianti con il nome di un animale ben augurante per una cultura. In questo caso il GECO è una macchina che è messa sulle discariche, capta i gas provenienti dalle discariche quando il metano è in bassa concentrazione, che quindi non può più essere utilizzato per produrre energia elettrica, e evitiamo che venga emesso, perché impatta 21 volte di più della CO2 come gas serra, e lo trasformiamo in CO2. Quindi ogni macchina di questo genere equivale a piantare 1000 piante. Oh, ed è qui che io la volevo, perché lo sapevo, e in fondo questa intervista fa parte di quelle che noi facciamo quando parliamo di cose nuove, di innovazione. Rivediamo un attimo quello che lei ha detto, e cioè qui abbiamo un sistema per catturare il gas che esce dalle discariche, che normalmente, come dire, viene catturato male o addirittura va disperso. No, normalmente questo in effetti va disperso. Va proprio disperso questo. Va disperso perché sono gas poveri di metano, nel senso che sono sotto il 25% di percentuale di metano, quindi non possono più essere economicamente utilizzati perché il metano possa essere trasformato in energia elettrica attraverso un motore. Certo. E quindi non viene più captato e se ne va in atmosfera bellamente, con dei problemi grossi, che conosciamo, certo. Non ultimi problemi di contaminazione terreni circostanti e in qualche caso di esplosione, anche come è successo in Inghilterra, come è successo anche qua in Piemonte qualche anno fa. Senta, ma allora questa l'avete appena presentata, ma sta già avendo successo oppure state facendo, come molti altri, fatica a introdurre questa innovazione? Perché qui di discariche ne abbiamo un bel po', sarebbe un qualcosa facilmente applicabile, credo anche. Come va, insomma? Ma lei lo sa che non sempre la logica significa la consistenza del mercato. No. In questo specifico caso, siccome si parla di una cosa che non si vede, non fa rumore e non fa granché di odore, nella stragrande maggioranza dei casi se ne va in atmosfera. Devo dire che in Piemonte cominciano a essere applicate queste macchine, ne abbiamo applicata una anche in Sicilia, in una bellissima discarica gestita da imprenditori molto capaci e seri, e contiamo di convincere i gestori, dimostrando che queste macchine hanno un potenziale di payback di 7 mesi, quindi se uno evita, perché normalmente cosa accade, non so se posso prendermi 3 minuti per spiegarlo, normalmente accade che si prende del gas ricco di metano, lo si mette insieme al gas povero di metano per mantenere accesi o i motori o le torce, sprecando quindi del metano buono. Se invece un'azienda, una discarica, si usa tutto il metano buono per fare energia e quello meno buono lo tratta con un sistema come il nostro, evita di sprecare del metano buono per mantenere acceso il motore o la torcia. In questo caso in 6 mesi uno si è pagato questa macchina, quindi se la paga, e oltre a questo fa anche del bene a se stesso, ai vicini, all'ambiente, a tutti noi. Normalmente nelle discariche i rifiuti producono metano, vari gas di serra, fra cui il metano. Il metano, quando è superiore al 50%, può essere utilizzato come combustibile per i motori e i motori producono a questo punto energia elettrica. Quando scende al di sotto del 50%, quindi quando non riesce più a tenere acceso il motore, questo metano, a oggi se ne va bellamente in atmosfera. E allora, voi intervenite qua? Noi interveniamo qua, prendiamo questo metano, lo metabolizziamo con le nostre macchine riducendolo a semplice CO2, quindi emettiamo anche noi delle tonnellate di CO2, ma emettiamo 21 volte di meno rispetto a quanto se ne andrebbe in atmosfera senza la nostra macchina. Quindi, come dire, non siamo al rifiuto zero, non siamo all'emissione zero, ma siamo a un'emissione molto più contenuta, di 21 volte più contenuta. La riduzione del danno è qualcosa sempre importante dal punto di vista ambientale, anche se si produce qualcosa che sarebbe meglio non produrre, però da 1 a 20 la differenza è estremamente significativa. E non solo, siamo ai limiti fisici di praticabilità di tale riduzione, cioè al di sotto di questo è difficile. Tra l'altro lo facciamo con un sistema naturale perché sono soltanto delle reazioni biologiche. Va bene, ho capito. E io cosa faccio adesso? Auguri per il prossimo deserto che sarà? Penso Colorado fine luglio e penso Nepal a novembre, ma auguri anche per le nostre aziende. Eh sì, soprattutto per quello devo dire, ci interessa molto. Grazie, buon lavoro. Grazie mille, buona giornata, grazie. Correre nei deserti, beh, insomma, non è una cosa normale, però poi se uno fa anche l'imprenditore e pure di tecnologie di frontiera, allora vuol dire che si può fare. Comunque non partite in quarta, se volete farlo preparatevi, datevi tempo, e quindi vi aspettiamo in ascolto fra 7 giorni. Buona settimana a tutti e a tutte.